բան եմ արել, շամպին եմ տեսել, մենք քիչ չեր մնաց, թե հաց մացի համար եմ ասում, էլ է։ Հաստա, լսել են ամանը պողնի, մոտը կա, բայց որդ են դրե չեմ մաց, դեկ դիտես կլնի էլ, երի յաշիք են դրե, բողնի։ Նա, չեմ։ Che si dice? Che si dice? Che non si riesce a trovare uno schema di quelli leggibili. Quello che ho trovato io non vorrebbe ingrandito, non si capisce un tubo. Quello che ti ho mandato io? Sì. Mamma mia. Perché? Perché è sfocato, E allora non si vede nulla. Non so come farlo a fare a ingrandirlo. Bisogna vedere se è sfocato già così di suo. Perché se è sfocato già così di suo, anche se lo ingrandisci è sempre sfocato, capito? Aspetta, controllo. Magari te lo mando in un altro formato, aspetta. Ok. Beh, te ne ho mandato anche un altro, Adesso? Un apparecchio, guarda. Adesso guardo. Ehi, avanti, che vuole entrare. Ehi, ma se non entri non so cosa farci. Forse non mi sente, boh. Questo uscendo. Ma quello dove c'è la radio? Quello aperto. Ehi, quello, prenditi qua direttamente. Tanto è buona la mina, pari. A me, briciola! Sto usando il 14 adesso, va pari. Così faccio, sto facendo anche il video per chi se lo prende poi. Capparroggerò. Fa il video. Capparroggerò. Vendo, bubazzino. Fai il video, Luca. Bello. Faccio video sì, hard disk. Quante vendenti, Mi è rientrato un apparecchio che avevo dato, fatto un favore a questo ragazzo di Continente che si vuole prendere una radio di ultima generazione, ma detto, lo ritiri nuovamente, per favore, guarda, ti mando anche la comina sua, un ricevitore della Kenwood, l'MC60, il microfono originale, e ha detto vabbè, rimandami tutto. Io avevo mandato solo, avevo venduto la radio e il microfono normale. Questi come deve monetizzare questo qua, ha detto mandami tutto. E infatti so, siccome questa radio era la mia, però se vuoi bugare non voglio più di quella roba, capito? E te trova pavice. Infatti non li voglio più, giusto a fare un piacere. Se riesco a prendere tutto un blocco, 70 euro, se ci buttano il tutto, e via andare. Appa. Lo rimetto adesso perché l'ho tirato, lo rimetto poi in origine, capito? Andare. Sto uscendo. No, è cazzo male, è troppo forte la radio, cazzo male. Aspetta che lo abbasso, è sotto la M già, porca miseria, tirando troppo. Guarda adesso, Manuè, adesso è proprio all'inizio lo slider. Adesso va bene, perché siamo troppo vicini, cazzo ne ha la radio, ma poi si sente che è un meccanismo, cioè, da microfono subito si sente. Devi abbassare il macchinino. Vabbè Natali, un bel alta, vabbè che siamo vicini noi, vai Natali, che prima che mi ascolto. Anche qua rimane. Sì, perché l'ho tirato una tarica, capito? Verso a zero il Machiché proprio. Dove c'era la lineetta dell'inizio, appena appena dopo la N praticamente, del minimo. Che ha attaccato. Anda bene meda. La sua villetta lì hanno aperto. Guardate voi che ti ho mandato, quello lì c'è tutto Natale direttamente lì, se non siete preoccupati, anzi, buon bilancio finale, buone sere direttamente chi vedrete. E comprendo, Natale. Esatto, guardando roba. Ecco. Giulio. Marcolino Condo, sì. Marcolino Cattari. Oia. Qualche batteria di macchina c'è da 50 ampere? No, negativo. Marcolino. Quello è dormito, ecco, il Marcolino Condo. E sarà quello delle Ucraine che ballano sul tubo. Dormito, ecco, il Marcolino Condo. Perché oggi ha mangiato brodino di mammo. Adesso sto facendo colazione. Hai capito? Marcolino Condo, eh? Non rispondi? Molto poco. Sei maniaco, Emi. Perché anche lui va, non lo sai, piazza Castello, che alle 11 ci sono le massaie. Ah, con le massaie va, hai ragione. Devo vedere calze a rete rotte. Poi mangia brodino di mammo sempre questo Marcolino Condo. Anche oggi. E allora l'ho sentito questo mezzogiorno, dice stava mangiando brodino di mammo. Ah, Zucchi, la brodina a dieta. E poi deve essere gli è venuto la biocco, no? E si è addormentato. Guardare se intende, più la televisione che tu. Adesso la spengo, così impari, non te ne faccio ascoltare, a gratis. Ma se mi pare un chiedo di giostre, mi pare. Perché qua e basta, è un microfono che amplificheggia Marazzucchi. Sì, ma sei troppo vicino alla televisione. E il microfono cazzo amplifica le cose amare, poi se basta canto di Biazzi, e si intendi. Manca bizzardo un minero che è accesa. E devo farvi vedere. Perché se l'ha accesa mia moglie, invece adesso non c'è mia moglie che è andata a portare il cane. E quindi la televisione era la sola attesa senza baitarla nessuno. Ma cosa non asciugano oggi compreso? Ma poi? Oh! Guardate voi il video che ho mandato. Ti farò aspetta che lo guardo, aspetta. Provoca Marcolino a vedere se entra, quel maniaco. Marcolino! Cosa vuoi? Aspetta, sto guardando una cosa qua. Sì, guarda il video che ho mandato, c'è una voce sexy dalla colonnina della radio. Me la regali quella colonnina? Sto rispondendo a due che mi hanno contattato. Mi ha innamorato anche Franco, mi ha innamorato. Capito? Bruno Vivoni sulla biglia. Ma se la regali da Sciucci. E come ti vuoi, a pallettone o a palla singola? Come vuoi. Guarda, sto regalando 50 euro. Di me non la posso regalare, se no che regalo è? Se la regali è un'altra cosa. Io non ce l'avevo, l'ho regalata. Per quando mi torna indietro il 44, erami. E appunto, è di quando proprio questa, capito? Questo regalando 50 euro. Non lo vedo quanto costa, non è? 70, 80, 100, vai. E prenderà. Ah, lo so, cioè regalata, l'ho data con l'altro 4,40, con quel 4,40 che ho venduto. Gli ho dato la colonnina, l'alimentatore, l'MC60, tutto. Vai a preparare a mangiare per stasera, va. Ci sentiamo ragazzuoli, buona serata. Altrettanto, signor Manuele, buon trabacco, buon tutto. e accendere buona cena, buon tutto. Tutto è queste sue cose, allora. Mi ha girato due, 4,40 io, mi pare. Anche io ne ho venduto due. Ed erano tutti completi così, capito? L'ultimo che ha dato era un signor, ma signor proprio delirio di da, un bel 4,40 veramente di lusso. Ma quello che stai sistemando non lo vale, anzi, attacca che su, cosa lascia 11 giocattolini. Mi stai mettendo in ponte. Ma ti bello che ti non era una radio del genere e battiti un giocattolino, ma noia. Ma non ne voglio più tenere, perché non me ne viene più voglia manco di ascoltare, non sto manco più ascoltando niente, la verità è. Mi sono rotto le scatole. Ma no, di cosa accorci, se intanto non entra nessuno, cosa accorci? Io il 98% del tempo lo passo ascoltando in altre parti, cosa inutile quella roba, babosa. Agitare forse entra qualcuno, ma. E lo so, sta morendo anche quella, è per quello che non voglio dire nulla. Al limite quando proprio vedo non c'è nessuno, prendo e mi vendo anche questo qui. Quello che mi si dispiace è quell'omologato che mi si è bruciato, se non riesco a metterlo a posto è un macello. È arrivato anche però se te ne metti anche quello, mi sa che lo vendo, boh, non so, adesso tengo un po' e vedo un po' cosa farne. Bellino, era giusto per cogliermi un coso, dai. Ne ho capito. Piccolino, troppo. C'è più migliore di 140, buh. È comprato, poi c'è l'accordatore, c'è tutto. E io adesso mi ha giovinduto quasi tutto. Adesso vediamo un po'. Adesso come rientra quello prendo e me lo vendo. Cosa me ne voglio? A tenerlo va entrare 27, ma non saranno. Boh, basta. Finito. Certo, addirittura siete comprando roba nuova. Ma con nessuno siete comprando roba nuova addirittura. Boh, io diciamo l'ho già compresa. Questo qui solo c'ho nuovo, comprato nuovo. Basta. Mi vendo tutto. E tengo solo questo. Se riesco a aggiustarlo, l'omologato è buono. E se no, finché dura mi uso questo. A da poi quando vengo che se no entra nessuno mi vendo buruiccio e così no, non tengo più nulla, non me ne sbatte nulla. Ma guarda, mi hanno disgustato. Già ce l'hai, ma poi già ce l'hai anche l'altro, lascia stare. Non eri senza, no, per comprarti quello. Troppo, già lo sappiamo. Non c'ho nulla più, no. C'ho questo solo, quel ricevitorino c'ho che mi ha dato tu e quell'altro che avevo. Per entrare qua non avevo nulla, no? Ma più che tu mi hai giovinduto, l'ho restituito al padrone quello che c'avevo l'altro, no? Perché ha detto se lo devi dare lo ritorni a me. Quello lì me l'ha dato appena revisionatomi, era una belva. Ho avuto un modello troppo di quello io. Nuovo in scatola, me l'avevo fatto in conto al lavoro. Nuovo in scatola, il modello troppo. Io non mi abbia zia. Il 27 era sempre chi dalla musica, capito? Ma il mio andava bene il 27. Non avrò avuto il processore, come dici tu, ma aveva una radio e spaccava il culo agli uccelletti. Se mettevo il macchinino a manetta, guai. E tutti vanno, lo sappiamo, lo cari, ma non come, capito, tutti vanno, già entra. Anche se te ne metti, vanno e 1.200, tutti vanno, cosa aumenta? Aspetta che vi faccio sentire l'altro. Uscendo? Sì? Eia. Guarda questo qua, aspetta che... Cazzo, vedi, almeno questo c'ha di bello, se ti mette che puoi entrare. Aspetta. L'avevo già messo al massimo, il marchigay. Vedi? Questo è al massimo il marchigay, non so se sta strappando o che cosa. Gli ho adattato anche a questo il 60. Non strappa un tubo, va benissimo. Però magari dico, non c'ha la timbrica del 140, eccetera, eccetera, capito? Però non me la fotte nulla. Ripeto, io l'ho preso per l'estetica, è bello, e per altre cose, non passa in occhi. Io siccome non sto più ascoltando niente, io di un apparecchiosi non me ne posso nulla. Se no me l'avrei già preso il 7300, l'avevo detto, no, che mi piaceva. Credimi, è bello. Non hai usato rispetto in tempo reale, c'ha... Bello, no, è bello, bello. Cosa che, per esempio, non c'è il 1200, ce l'ha, ma non è in tempo reale, capito? Cioè, c'è questo 7300, ce l'ha in tempo reale. Boh, adesso vedo un po', non lo so cosa farne. Se a te piace ascoltare, ti conviene tenerlo, quello. Tu dici, tenere questo e dare 1200, perché di due alla fine? Non lo so. No, te li tieni tutti e due, mica devi vendere il 1200, perché lo devi vendere, è bellissimo quell'apparecchio. Sì, a differenza del 7300 c'ha quell'opzione là, per il CW e basta. Sì, K. No, sono belli, belli veramente, caspita. Io lo grido, io sono belli. Belli e funzionali. Quei capo sono giocattoli, so, confrontarissi, cosa... Poi roba vecchia, mamma mia, si facciano e ti danno a piedi. Come ti mentre le mani, d'ora me lo gioco subito per i denti. Ma se aveva ragione Ciabazzona, che lì si barravano. Rischiosi sono, io perché gli ho dati tutti e due? Perché ho detto, non so, non si sa, non si un domani... E ti la sapevi, io ce ne avevo due, già lo sai. E invece ha già detto, beh, ci avete in giro, ho guardato nel negozio di Roma Radio, va giù da Edu con tutta il resto della roba. Come ti arrivi lo bacco io, ma tu domani parte, sta partendo il 1200. E così ho fatto. No, non ne voglio più dire, c'è roba nata lì. Dove volete c'è l'ho 40? Guarda, io ne ho avuto tre con questo, solo questo mi ha fatto quel difetto lì, e adesso appena me lo piazza me lo vendo, cosa cazzo, armaco, sono tranquillo, ti appoggio, via. Sì, ti conviene darlo, secondo me, Natale, anche perché con componenti nuovi insieme a quelli vecchi dice che non... dice prima o poi parte un'altra cosa, così mi dicevano, capito, perché ormai non è tutto più originale, e così che... Bene di te, magari lo vendi qua a qualcuno stesso. Lo venderò a qualcuno, a chi viene prima e si rubiglia, come mi rientro già, me la futto. Tanto, ho perso la passione, mi hanno fatto troppe cose e quindi non mi sono disgustato, va. Cazzo, prima ero sempre a cucendi, vendi, di tutto e di più. Ah, va, cosa vuoi fare? Non puoi fare nulla. Aspetta. Sì. Mappa 1 vacuna. Qualcuno su 10? Paolino, passati sei. Paolino. Mercurino, buonissimo. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Hola, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chi è là? Madonna, allora, 1, 2, 3, prova. Allora. Prova. Lorino, ci sei? Io stavo solo ascoltando. Ora, 1, 2, 3, prova di modulazione. Ascolta, Tony, spegni il telefono, perché innesca, aspetta, magari quello lì che fa rientro nel telefono, spegni. Prova adesso. 1, 2, 3, prova di modulazione. Va benissimo. Amplifica. Kappa. Vediamo con l'eco. Ora. 1, 2, 3, prova di modulazione. Sì, già va bene, dai. No, con l'eco non mi piace, è meglio senza, senza il checco. Ho preso la pasta stamattina da Bricome e ho fatto le saldature. Ehi, Antoni, abbassa appena. Aspetta. Oh, questo va forte. Guarda così. Così va bene, fa un passaggio più lungo. Ho capito. Fa un passaggio lungo. Ok, 1, 2, 3, prova di modulazione, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla. Ora, sì, 1, 2, 3, prova. Sì, va bene, Tony, ricordati a mandarmi quei numeri che ti ho chiesto. Quale, mi ricordo più? I numeri del centro di abito. Ah, adesso te lo mando. Scappa, già va bene comunque, dai. Adesso sarà arrivando quel mio amico a vedere se abilassi la giacca. Quando schiaccio si sente che è il zocco. Prova. Hola. Veramente si intende di ribizzone. Ma poi sono fuori, cosa c'entra? Pare che siano in casa a due. No, e amplifica me. Se addirittura per la trasmissione in cucina che con le cuffie mi sentivo forte la televisione, è come se l'avessi vicino a me. No, già amplifica bene, sì. E lo sciure questo qua. Già va bene. Anda bene. Oh, ho lavorato il microfono. No, l'abbasso troppo alto. Boh, un casino. Oh, yeah. E comunque adesso va meglio. Adesso ho un microfono potente. Ma quello largo è quello che occupa un po' di spazio. Non ho capito. Lo sciure qual è? Quello che occupa molto spazio, mi sto sbagliando io, quello largo. È alto, è grosso. Allunga anche la microfono, la testa del microfono, allunga ancora di più, diventa più alta ancora. C'è il volume rosso e lui è tutto grigio. KK. Vabbè, già ho capito qual è allora. E chi è che hai detto? Provo so anch'io quello. E esce un bel forte, la capsula originale? Sì, già esce bene. Chi c'è su 10? E io ho messo anche metà di Mike Gimmi. Infatti è un bel forte. Se la metto, guardami. Ora, sì, prova. Guarda quanto è forte la radio così. Ehi, ma è troppo a Bluetooth, certo. Ecco, dovrò sarà così, dai, più o meno. Anche a distante. Ora, ora, ora. Va bene anche così. Qua io c'ho il volume dell'apparecchio mio a 3 e ti sento fortissimo. Addirittura. E sto usando il Galaxy, sto usando. Ma infatti con l'unico Galaxy va bene. E sposano bene questi microfoni che andare. E lui ha 3 fighi soltanto, ci sono andati. Il rosso eliminato, la carta il nero e il bianco. E lei era quella. Cosa? E lei era di costruzione. È quella lì, quella del garage, quindi si accoppiano per quello bene. E cappa. Ma ho visto pure coso, che è quello che muove la zona Sacro Cuore, che c'ha lo sciure, c'è un bel forte in radio. Sì. Quello che entra rare volte entra, esce un bel forte in radio. Franco, in Aburmena Tumino si chiama. Ma stai dicendo Giuseppe Tornado? Non mi ricordo, Zona Sacro Cuore mi dice sempre. Zona Sacro Cuore. Ah, Franco. Ah sì, Franco Binario. Lui c'ha lo sciure lo stesso. Esce bene. A bomba esce. E l'antenna ce l'ha appoggiata sul terrazzo così, non ce l'ha manco sul tetto. Figo tu, se l'ha messo sul tetto, guai. Cappagappa. A me mi arriva sparato, mi arriva. Sì, anche a me, figurati, a me lo stesso. Ma io guarda, stamattina sono dovuto andare a comprare i prodotti per la casa. Già che c'era adesso mi avvicino al bico, mi ha preso la pasta. E tu mi ha fissato con lo sciure, che e così è giovato. Cappagappa. La preparazione questa qua è. Ah già. Dimmi tu. L'altra mattina sono andato da Fotolella a prendere le paste. E le portate all'ex mia moglie, cioè mia figlia. Le sono piaciuti, ha preso i cornetti, anzi diciamo che sono manni. E beh ti viene di crema su. Via. Una decina che ho preso. Cappagà. Ah, oh, non è che c'è poca scelta, capito? Fa quei tipi di pasta e buco. Ho preso il mini, ho preso pesca ciabatta e qualche diplomatico, roba così ho preso. E lei ecco. Aspetta. Attenzione, canale di... Lascio il popolato. Attento al collega che viene copiando Sassari. E c'ho anche minima potenza. Così la radio è sempre buona. Oh già, attenzione Gianni. Ora, attenzione. Gianni, canale 10. Torni un attimo che hanno suonato. C'è un amico che ti vuole molto bene e lo voglio ringraziare moltissimo perché è uscita da un periodo molto difficile ma non ha voluto per questo rinunciare a regalarti questo messaggio. Scusi, c'è qualcuno in ascolto? Tony, ci sei? Tonino? Oh, Tony! Attention! Si chiude 10. C'è nessuno su 10? Yes, avanti. Ciao Natali. Ciao già. E non ve ne esce tutta la sera, cara. Sei entrato Tonino a provare lo sciule, che da poco ci fosse. Sul Galaxy l'ha messo, no? Ehi, ho grido che ci vuole, non ve ne fa nessuno. È qualcosa che un barrasone, se no è bello col microfono. Che benissimo la sorte. Frega anche al partner. Piazzato sul Galaxy si associa a Duccio. Capito? Va benissimo. Sono stati fatti negli stessi tempi, quindi magari anche per quello. Hanno fatto, diciamo che si adeguava. Perché io ho provato in tutti i microfoni e ci porterà il Shure. Lo Shure. Ho provato col Turner più 2, col MB più 4, col Turner più 3, e chi più ne ha più ne mette. Però il shooter era quello che pompava di più sul Galaxy Saturn Echo, capito? E anche il Saturn Echo comunque pompa. Ma come intero shooter non venne, era quello che si accoppiava meglio con quell'apparato, capito? Ma col Galaxy bene o male tutti gli apparecchi, tutti i microfoni vanno bene, ne ho provato diversi, tutti andavano bene. Lo so, anch'io. Io ho fatto tutte le prove, ho fatto, no? E quello che usciva più forte, più chiaro e più bello era lo shooter. Perché io faccio, li avevo tutti quei microfoni. Quello professionale che usa Manuela per cantare è shooter. Che cazzo, uno non ha garanzia, non ha compreso. E anche quello che avevo regalato era il compleanno, gli avevo comprato lo shooter lo stesso. E usciva ben bene, era un bel Bizanti, ma usciva bene, una bella timbrica ti faceva. Quelli per cantare quasi tutti usano quello lì. Quello che ho preso io l'ho pagato su 130 euro. E costano, ma sono dei buoni microfoni. Vabbè, e come le cuffie, mi libera del cinese, si facciano subito, le cuffie, quelle buone ti durano, io per dire, c'ho ancora le Sennheiser, quelle che avevamo comprate insieme, se ti ricordi, le Sennheiser, te le ricordi la tagli, le abbiamo comprate insieme, 70.000 lire costava. E allora, ce le ho ancora io quelle lì, col cavolo è che si rompono quelle. E la buona cosa, sono i zeri, non le senti nemmeno, e quando ascolti musica con quelle cuffie lì è una favola, sono quelle che usano i DJ, capito? Quelle che usano per i DJ che sono leggere. E sono da studio quelle lì, la musica poi la senti come la devi sentire, non sono quelle matracche che compri dai cinesi, cazzo, sono cuffie con la C maiuscola, le Sennheiser ce le ho anche io quelle lì. Attari, le avevamo comprate insieme via 4 novembre col negozio di cose musicali che c'è via 4 novembre, siamo andati insieme a comprarci. Lo so, quelle lì ce le ho anche io, ce le ho ancora, e tanti anni sono passati, e là c'è ancora i Sennheiser. Per me sono sprecati, perché io li uso per il baracchino, però ascoltavo anche musica con quelli lì e si sente un bel bene, proprio i bassi si sentono a livello proprio. Io lo grido, io pure le usavo, sono sprecate infatti per il baracchino, perché sono fatte per ascoltare la musica, quelle cuffie lì sono da studio proprio. Se avessero avuto il microfono le avrei usate per cantare, però non hanno il microfono, io mi sono comprato le Trust, però quelle buone, quelle diciamo professionali, dai, per cantare, e quelle lì vanno bene lo stesso, però sono più che altro per computer, quelle lì le usano per i giochi del computer eccetera eccetera, infatti c'è il simbolo dei cartoni animati che usano col computer, però sono pesanti, però si sente benissimo. Lo so. Invece le Sennheiser sono pulizie, si sente bene, sono leggere, è praticamente lo scheletro della cuffia, non è nulla. Mi. Avanti. Ehi, ciao Antonio. Ciao Antonio. Bene, ti arriva questo microfono. Sì, al grido via. Tutta un'altra ministra, Quello lì non ce n'è per nessuno. Capito? Attaccato a quell'apparecchio lì, no, non viene per nessuno. È chiara, bella, voci. E quello lì ce l'ha anche Franco, ce l'ha quell'amico mio del Sacro Cuore, quel micro. Io ce li avevo tutti quei microfoni, li ho provati tutti. Però su Saturn Echo quello che si adattava di più era lo Shure. E K, solo metà volume. Così è al massimo. Abbassa ancora, tu sei troppo forte. No, abbassa a metà, va bene. È troppo forte quel microfono, mica, con quell'apparecchio. Mettila a metà. Non la sa di più. Chi va è la voce di Giara Giara di Vasi. È un signor microfono quello. Gli devi dare di lì, non di due tumbasa. Di due sedi devi dare. Cappa, meglio adesso la metà data lì. Facciamo così, almeno si sente la voce chiara, capito? Gira, gira, se la fotti anche il microfono, dai. Gira, gira. Se la fotti anche il microfono. Sì, l'ho sentito quello del Sacro Cuore, Franco. Lo stavo dicendo a Gianni, è super forte stesso. Perché la scheda dell'apparato è uguale a quella che hai tu, mi. È la stessa scheda. E a quegli apparati lì si è adatta quel microfono lì, io ho provato il Turner, più 2, più 3, l'MB più 4, cosa non va più usare adesso? Beh, quello che si adattava di più era il Turner, lo Shure. Te l'avevo detto, no, che era così la situazione. K, io ho anche l'Expander 500, questo non è granché. Lo so, anche l'Expander 500, ce l'ha un amico mio quello lì, che gliel'ho dato io, però come te lo Shure non bindava, perché esce chiaro, specialmente con una voce come la tua, è forte, capito? Ehi, capa, ecco c'è il volume rosso qui, tutto grigio, poi si alza, si allunga. Non sono picchiato su mai nel mobile, ci sono con un capo guai. Avanti già. Sai che stanno a vederlo com'è, se come forse mi sto confondendo con l'Expander. No, lo Shure è quello che ha la regolazione rossa. Lo tieni basso, Tony. Lo tieni abbassato, se non ci sta. Già lo so che si allunga la cosa, l'asta del microfono. Ehi, capo, io sono distante, buono, 30 centimetri, guarda lì. Un puro più lontano di voi buoni, tanto lì su bomba che cosa male. Tony, indovina quando lo stanno vendendo lo Shure, là ce l'ho visto. 217 euro. Incapito. I Shure costano, anche quelli per cantare, costano un casino di soldi. E allora gira gira costa più dell'MC60. In chi mi sembra? Gianni, uno così al tuo Galaxy ce la vuole. Cosa? Al tuo Galaxy, uno così ce la vuole. E perché questo male? No, non è come questo. Ah, vabbè. Se ne ha altri, magari me lo dà. Walter, uno. Chiedete, prova. Non costa niente a chiedere. Ehi, vabbè, dai, no. Adesso non ne voglio prendere, non mi interessa per il momento. Già ne ho microfoni, ne ho un bel. Questo va bene comunque, va molto bene. Se sono nature bene te le fatte. Cappa, ho preso la pasta stagna, ma forse non l'avvio. Ma quello, cosa ha preso? Stagno di quello con le, col coso incorporato? Senza la pasta, ho comprato soltanto la pasta che non c'avevo, il barattolino. Ce l'hai, c'è che ti mancava, te l'ho detto che ce ne avevo due. Vabbè, ce l'avrei data io. Vabbè, ma ce l'ho, sto lì a chiedere già. Ah, fai per l'acqua. Andrà bene, avanti il nattalino. E io vi ascolto, dai, che sto iniziando a cenare. Vi ascolto, dai. Così presto, nattalino. Sì, ho mangiato tardi a mezzogiorno pure. Vabbè, là, vi ascolto. Cappa, d'accordo, ciao, la tariffa un Corix. E mo carica batteria, avanti già. Io mi sono fatto due cavoli bolliti, adesso me li mangio salata stanotte, non mangio asso. Se no, la vicini a sale, in questi giorni ce l'ho sempre 90, 100, non lo so superando i 100, oggi ce l'avevo a 100 all'ora di pranzo. Io a 100, 150, ho una sfilza di gelatica. No, io non ne ho mangiato, mi ho mangiato quelli che avevo e poi non ne ho più toccato. E vabbè, un capriccio si può fare, ma se li compro me li mangio sempre, quindi. Cappa. Aspetta, aspetta, aspetta. Dai, comunque se c'è la carta penna ti scrivi il numero e te lo do qua. Mandami su WhatsApp. Allora devo cercare il numero, scrivere sul pezzo di carta e dateli. Ma io non c'ho penna qua, capito? Sono sdraiato, non ne ho di penna. Dai, ti passo la penna io. Sì. Diciamo che quando puoi rimandi, dai, non è necessario mi rimandi adesso, però ricordatelo. Me li spedisci tramite WhatsApp e sarò a posto. Già, te le mando tramite WhatsApp, dai. Adesso sei contento, non è quello che dico io, Notone, quello che dico io era l'Espander 500, quello largo, quello è stretto, sa, del Shure. No, questo, lo Shure, si allunga il collo alto, più alto dell'Espander. Kappa, e ce l'ho qua davanti, 213 euro, da bobo. E costano già, però ti do soddisfazione, ti danno, gà. Io mi sento con le cuffie, una bomba, eh. Già va bene, anche io mi sono ascoltato, le cuffie, questo esce bene lo stesso. Il tuo è palmare, però. Cosa? Il tuo è palmare. No, è MB4, modificato da me. Dello ZG. ZG, come quello che ho fatto comprare a te. Quello che ti avevi comprato tu, che fine ha fatto? Non me ne metto più a chilowatt. Tutti li dai. No, ma chi ci prende tempo, però? Ti avevo fatto fare un affare con quel microfono, costava più di 50 euro. Costava 59, 58, una cosa del genere. L'avevi pagato 40, mi pare, bene. Aspetta, non era da tavolo, cioè era palmare. No, quello della tavola ti ho fatto prendere, se ti ricordi. Te lo ricordi che era quello che c'era un po' rialzato le scritte, che c'era una bolla, che le avevano riportate dietro perché aveva la bolla delle scritte. E me lo ce l'abbiamo preso lui. Sì, ho capito anche a chi l'ho dato. Cappa. Quello lì andava bene, solo che va quella fesseria, deve essere, l'hanno lasciato in vetrina al sole e ha fatto quell'affare lì. Cappa. Sì, avevo dato Riccardino. E vabbè, comunque, fa bene così questo qua. Amplifica un bel questo, va. E noi che non puoi mai fare nulla, ma contro te che ti intendi tutti. Ma lo sai che se parli in fretta non si capisce cosa dici, perché ti accavalli le parole da quanto è forte. Abbassa appena appena ancora. Io passo di così. Guarda, così sei perfetto. E come che ho un Ferrari e sto camminando a 30. No, stai, cazzo, se ti registro ti faccio ascoltare. Ti registro e ti faccio ascoltare la registrazione. Ed è bella forte, Chiara. È un bel forte. Io sono qualcosa al minimo, col volume al minimo. E arrivi forte così, figurati. E poi con le cuffie non rende. Tagli la registrazione già. Con le cuffie non rendi. Come non rendi con le cuffie, Natalia? Perché non ti senti come esci veramente. Capito? Infatti io mi sento in un modo diverso, metallico, forte, però non mi sento in realtà come sto uscendo fuori, in frequenza. È tutta la nostra ministra, adesso così, una bella sviluppo di danni. No, Natalia, assolutamente, che Germania in quanto la Galaxy si è sposato e sì, infatti. Gianni. Poi collego è un casino, dicomi. Me. Collego è un casino. Troppo forte. Non scoprendi nulla, gà. Questo è chiaro, chiaro. Con le cuffie non rende. A meno che faccio una cosa, mi metto le cuffie su un altro baracchino, accendo e mi ascolto in ricezione con l'altro baracchino. Se non mi messa. Perché non rende con le cuffie. Sei giaro con il secco. È il microfono che fa tutto. Io quando ho scritto senza Franco, quello di Sacro Cuore, ho detto Capita, mia radio bella che c'ha. Sembra che il microfono stai usando. Non è sure, ma dito. Andare, mi dico così. Ma te l'avevo detto anche io. Io su Saturneco ho provato tanti tipi di microfono, non è che non andassero bene. Il più forte era lo Shure, è il più chiaro soprattutto, come Gimbri, cammini. Sì, me l'hai detto che tu infatti. Ciao, dove? Oggi mi sono appentato, dove? Allora me l'attacco. ho già più di una settimana l'appalto sotto la mobile, allora me ne attacco, cosa si è già fatto? Lascialo così, e tu sei un signore. Ciao. Gianni, che fine hai fatto? Ti stavo registrando tu. Dove me lo mandi? A WhatsApp. Aspetta che te lo mando, io. Su WhatsApp? Ernia. Vai, non te lo voglio dire. Ho visto stamattina a Elio Piuma, stesso capo ingrassato, mamma mia. Tu conosciuto l'avevi a Elio Piuma, Natalia? Sì. Solinas. Tu Gianni, conosciuto l'avevi? Sì, sono perché a casa sua, io, a Usi. Ehi, Gesù quanto è ingrassato, mamma mia. Aspetta, ve l'ho visto? Ah, alla Little, sì, guarda con una donna. Mannato, ma sai cos'è? Quel microfono lì fa, la casa di Tunino arriva qua. Sì, sì. E mi ha fatto anche l'attacco, cazzo. Beh, non me l'hai mandato. Io già te l'ho mandato. Ma sei sicuro? A me non mi avvito niente. Ho soltanto il tuo buongiorno alle 8.25. Lo so, perché sta la carica. Mi lo vi? Sì, sta arrivando. Ecco qua, sta caricando, bla bla bla bla bla. Ok, adesso l'ascolto. Senti anche a Tartarino, quindi te lo so di notte. Ahi. Prima c'è Tartarino che commenta qui sei tu. Ombre forte, raga. Cosa? Ombre forte. Si sente chiaro qui, vero? Cappa. Buonasera. Sì, Tony. Buonasera. Buonasera Carlo, avanti, buonasera. Carlo, e dove è Carlo? Ciao Luca. Sono a Gotto, Gigia. Un trattarino, quindi si va, se tutti guzzi, boh. Gianni. Sembra a Carlo, se parla a rallentare la cosa, ma come si chiama? A ratte, sera, sera, come fa a capire chi è? Parli a ratte. E tu chiedigli QRZ. Avanti col QRZ. Mia vecchia, ma non fa vita. C'è un cuocuoma, ma è quell'unica. Oia, cocco. Sarà che mi ha detto anche lui un cuocuoma, ma è mio. Pudusa. Sì. Davvero. Era anche le cose cuocuoma, ne. Torino. No. Sì, siamo detto è cuocuoma, ne. Gianni è alcolizzato, e tu sei cuocuomane, io sono sano. Ma sono alcolizzato, ma giù mi do succo di frutta, non succo di frutta, il succo di cosa? Di arancio. Ecco il succo di pupa, vai. E quello un 1% di alcol, sei alcolizzato. Vabbè. Sono anche da tanto che non compro un vino, prima me lo prendevo e poi non ne ho più bevuto, nemmeno a pranzo. Io sono fatto il conto, quando sono meno dimesso, dal 23 aprile. Ti bugia, sono dal 18, no, aspetta. Dal 17 aprile che non bevo, fatelo conto. Nulla, però, ti bugia. Ho assaggiato ma pochettino, ma proprio sto mangiando la faineggia, se ci vuole il vino. Comunque abbiamo organizzato la faineggia, io. Sì, io l'ho visto in via Monte Attento col soldatore infilato sul braccio. Poi non lo so se cuocuomane. Perché mi stai sputando adesso, io organizziamo la faineggia. Organizziamo la faineggia, organizziamo. Sì, da Benito però, Abbiamo fatto un giro l'altra volta. Abbiamo speso tipo fai 15 euro a testa, ma magnato però. Ci ha fatto la, come si chiama, la faina con zucchine e peperoni, è buonissima ragazzi. Tutte di carità, cipolle, cipolle e salsiccia, solo cipolle, guarda, uno spettacolo, buona. Abbiamo speso 13,50 euro a testa. Io ho bevuto acqua, no, ho bevuto chi ha bevuto aranciata, chi ha bevuto birra, chi ha bevuto vino. Ma è quello che vi è stato a prendere tu. Eia, andiamo lì, io organizziamo, la prossima settimana andiamo. Aio. Gianni, aio, organizza. Io vado a parcheggiare la macchina, la vedo tutto lì, chi mi lo imbiarsi, no, lì non ci vengo. Perché c'è la macchina piccolina. E sta con una maria a parcheggi già, quella cazzo, la voglio tutti la tinchi, cosa mettono niente, devi fare a piedi da voi. a metà la stazione, ma non ci vuoi già andare 50 macchine, no? E poi già, non c'è bisogno, cioè, ci vuole mangiare una farina buona arrivando in Chivi. Lo sai, c'è anche Tonino, lo conosce. Ho mangiato anche io, Albini. E allora lì vuoi andare? Allora in casa con una Mariana a pagamento, o dopo le 7 e mezza lo trovi un parcheggio, e te la tocca. La mamma sei picchi, me l'hai mai educata. Adesso perché mi stavo avendo il pigiama, ho capito che devo stare a casa. Oggi voglio di culo negli dati, dimmi. Dici, non è vero, oggi, se stai la conosco la gente di merda a casa, per carità. Se io faccio sentore, io lo fa puntare un telefono, fa fare una droga vecchia. Capito? Se l'ha ritirato, me l'ha voluto riparare. Io ho ordinato il pezzo, me l'ho sapesa nel sedere. E tu non gliene davi il telefono, se no, ormai ho ordinato il pezzo, mi paghi il pezzo. Tony, ormai è andata così, stava mettendo gente contro, gente pericolosa. Tu cagare bisogno, gente dalla parte di Nuoro. Ma già, a me mi sa che tu non vuoi venire perché ti fa scorreggiare, così è. Ah, non mi piace la zona. Ma c'è mica se il solito vengo io a prenderti. Allora io preparatevi, andiamo stasera, io. Gianni, ti non ti piace la zona, ma c'è, non so così, non sono discorsi da dire, ma lì non ci sono, me. Sono giù, tu entri dentro, lì non ci frego, manco l'ombra ne vedi da quelle parti. Ma che a me piace la zona, non solo a te. No, stasera no, non fa, domani lavoro io già. Non fa, poi domani non la stai presa, c'ho il barbiere. E purtroppo io c'ho l'appuntamento. Chi si liberi che mi sono rimasti in capo e quando andavo ai beni. Finché riesco, poi quando sta facendo poi non me li taglio io. Qua c'è la macchinetta, invece grazie. Se volete la prossima settimana andiamo. E io ho fatto prendere il minestrone che c'è dietro la roba. E poi c'è da dire questo, che adesso soldi non ne ho, se non mi pago quello là. Non c'ho soldi, capito? Allora c'ho qualcosina, si può fare. Vabbè, fatemi sapere. E poi andiamo a Negrette, dai. A proposito, Luca, questa radio com'è? Cazzo, sono in truscia, non so come non cazzo. Ma qua non c'è avuto un amico a fare qualche giornatina. Sono proprio sono una lamberda questa volta. Poi mi sono speso. Ma sono più di 300 euro per curarmi il naso. Dimmi, Tony, scusa. Questa radio con questo microfono com'è? È troppo alta, abbassa. Così, va bene? È troppo alta, abbassa. Sei troppo forte, Tony, non si compra in un cazzo. Uno, due, tre. È alta, abbassa. Così, va bene, dai. Ma per me è troppo alta, poi non lo so, per loro non lo so. Dai, ho abbassato ancora. E comunque non fa bene. Comunque poi mi ha dato un numero, Tony, questo tipo stava cercando uno per tagliargli il bordo della strada, dell'erba. Ho detto, quando vuoi fammi sapere, ci organizziamo. E dice, adesso ho dato la parola a un altro. Sente macca, cazzo. Io alle poste ho conosciuto questo avvocato, donna, Mona. Parlando, mi ha detto, elettricista, idraulico. Mi lascia il suo numero, già la chiamo. Non mi ha mai chiamato, Buzzinusa. Bah, per carità. Gianni, ti sento demoralizzato. Deve essere, hai fatto qualche proposta. No, ho detto io faccio i prezzi molto buoni. Così ti ho detto. Allora magari l'avrei convinto, magari già ti chiamo. Speriamo, perché secondo che lavoro li faccio, dico ascolti, facciamo, ma lei è avvocato, non faccio il conto che non sia avvocato, facciamo conto natura. Vai, non vado a curare, vai. Cosa? Non vado a curare. No, se me la vuole dare lei, l'accetto ben volentieri perché è una bella donna. Cavagato. Chiamati nuovo Maria dei Caribi, ho chiamato. Adesso c'è un'altra tipa che c'ha gli occhi azzurri, belliga. Ma speriamo. Io. Boh, vabbè, niente. Cavagato. Vabbè, adesso vediamo, dai, fatemi sapere la prossima settimana se sono libero, magari ci faccio un pensierino, dai. Va bene, io ho fatto un minestrone con ho messo un po' di riso già, ma non sai quanto è buono, mamma mia. Poi ci ho messo qualche foglio di alloro e mezzo, un goccio di olio d'oliva, ma non sai quanto è buono. E io stasera ne mangio i cavoli, me ne hanno portati freschi freschi da campagna, due belli grandi, e me li ho fatti bolliti, e uno lo faccio a sfogato domani. Ma c'ho gli anni pure. Allora, dimmi che c'è un amico che sta dando la linea del 14, sta dando M60, la colonnina e l'apparato. Non ho capito, cos'è trovata lì? Stanno vendendo la linea del 14, 380 la vuole, però è una belva quell'apparato. E che apparato è la DL14? 140, stati scendendo. Il 14 dice 140. E così si dice, anche il Kevud si chiama K, è camuffato. Ah, io vado bene così come sono, è perfetto. Se me ne sono l'apparato con l'MC60 già mi interessa. Sta vendendo l'MC60, l'apparato e la colonnina. È un prezzo buono perché l'apparecchio è buono, è nuovo, è più, è una belva. Perché già va bene? È quasi tutta la linea, manca solo l'alimentatore suo. Per quel prezzo lì già si può prendere. No, mi interessava solo l'apparato con la colonnina, non mi interessa. Sì, tiro da gara una cinquantina di euro in manco, se non ti interessa la colonnina. Gianni, fate pensierino. Si lo va a manisciullo, sì, mi piace il 140, di più del 440, c'è anche un 440 in ballo, ma lo stanno vendendo anche poco. C'è anche il 450 miglio. Tutto revisionato, questo qui lo sta vendendo uno che c'ha una ditta che vende apparati, capito? C'ha anche il coso, c'ha lo studio e li mette a posto. Io ho capito, io ho dato quello là al padrone, quello che me l'aveva venduto, mi ha dato gli stessi soldi. Adesso come rientra il 44 lo vendo anch'io, perché non mi tengo più nulla, mi sono scoglionato. Ma qual è tornato quello qui? Ho tornato quell'altro che avevo, no? Ha detto se lo devi dare, devi ridarlo a me. Vabbè. Sono figlio di un me strani, Puglia. Fammi sapere chi è tu, Natale, scrivimelo su WhatsApp. Vabbè, ok. C'è poca gente in questo periodo già. C'è poca gente, per quello che non mi ispira molto. Ma Luca che fine ha fatto? Chi? Luca. Cosa? Dimmi Tony. Non riprendi più. Avanti. Avanti. Avanti il fruschiotto. Non è voglia di entrare. Riprendi Luca. Che perché me? Andiamo bene, andiamo. Sta mai per me che mi stava chiamando. Ciao Vittorio. Ti ha pagato. Avanti Cucca. Aspetta un attimo, sta prendendo a posto l'orologio. Lui non ce la fai a tenerlo per qualche altro telefono, quel pezzo lì? Cos'è? Un telefono di quelli che si trovano ancora? Sì, A13. Samsung Galaxy A13. E quindi magari se è una cosa che si rompe spesso, magari... Io mi ho mai caduto nel water, lo sai? E quale? È nuovo? È nuovo, sì. Ma sai che ce l'ho fatta a salvarlo? L'ho subito asciugato. Non è entrato a bagno e subito l'ho tolto. Meno male che non avevo fatto ancora la pipì. È caduto nell'acqua pulita. Già. Qua ti posso dire una cosa. Col telefono c'è sempre un po' di acqua dentro. Sei stato fortunato, ma se si sporta poco a poco sei fregato. Perciò lo vorrei asciugato. Tranquillo che dentro l'acqua c'è, No, l'ho tolto immediatamente, subito asciugato con lo straccio, poi ho preso il forno, l'ho asciugato subito, l'ho spento e asciugato. L'ho asciugato bene col forno, sono stato un quarto d'ora asciugandolo. E poi una volta asciugato l'ho acceso e andava bene come più. Adesso guardate già. È stato fortunato allora, che di solito entra sempre l'acqua. Entra nei telefoni tipo l'iPhone, non entra perché hanno l'impermeabilità. Tipo il mio lo stesso, l'S10. Prima c'era l'impermeabilità a un metro di acqua. Adesso non ce l'ha più perché l'ho aperto, ho cambiato la batteria, gli ho messo praticamente una colla per incollare il coperchio posteriore, ecco. E non, adesso non c'ha più il coso. Se prende acqua, addio. Devo smontarlo, asciugarlo. È la stessa cosa di quel telefono, io ho ordinato il display, dovevo questa ragazza qua, era caduta nell'acqua, io l'ho asciugato bene, cioè, sembra così, mi dice.